Noi a San Pietro in Casale abbiamo una via di ingresso al paese che si chiama Via Galliera Sud e che è sempre stato un bellissimo viale alberato di una specie che si chiama Acero platanoides. Purtroppo nel corso degli anni molte piante si sono deteriorate in seguito a dei lavori, perché è stato creato un marciapiede successivamente alla piantumazione degli alberi, quindi insomma le radici e quant'altro, c'è stato un deterioramento del viale. Molte piante sono state abbattute, altre sostituite, le sostituite non sono state curate, quindi anche loro si presentano non in ottime condizioni, quindi è necessario una riqualificazione. Quello che noi contestiamo al comune è il progetto, non il fine. Il fine è totalmente condiviso, ci sono da abbattere le barriere architettoniche, c'è da ripristinare la viabilità pedonale e c'è da costituire una viabilità ciclistica con appunto la creazione. Noi suggeriamo di un paio di bike lane, cioè uno nel lato ovest e uno nel lato est. Invece il progetto del comune prevede tutt'altro, prevede la creazione nel lato est di una pista pedonale, quindi soltanto un marciapiede, e nel lato ovest invece la creazione di una ciclabile. La creazione della ciclabile nella fattispecie prevede l'allargamento dell'area oggi investita a marciapiede con l'abbattimento di tutte le piante. Noi non vogliamo salvare tutte le piante, ma solo le piante sane, quelle soprattutto vecchie che hanno più di 50 anni. Sono piante che rappresentano in quanto tale un valore e quindi noi le vogliamo tutelare, soprattutto nell'ottica attualissima del discorso del cambiamento climatico, della transizione ecologica, e perché la nostra unione comunale, Unione Reno Galliera, si fregia di titoli tipo green e quant'altro. Per cui, per un atto anche di coerenza, chiediamo di salvaguardare queste piante sane. Quante sono le piante che verrebbero abbattute e quante di queste sono sane? Sono 115 in totale e noi vogliamo salvare sicuramente 31 considerate tutte sane, più altre 31 che sono considerate da una perizia, non da noi, da una perizia commissionata dal comune, comunque considerate salvabili. Le altre, quindi praticamente la metà, siamo tranquillamente disposti a lasciare che vengano abbattute, perché oggettivamente in condizioni non buone. Verrebbero poi sostituite con altri alberi? Allora, il progetto c'è di sostituzione, anzi, a dire il vero, rispetto ai 115 oggi presenti, vengono considerate le ripiantumazioni di 200 piante. Noi abbiamo contestato anche la specie scelta per questa ripiantumazione, perché è una specie poco adatta all'ombreggiamento, poco adatta alla ricostituzione di un viale simile a quello che c'è oggi. Però su questo aspetto, cioè la specie, il comune in effetti ci è venuto incontro, nel senso che è disposto a rivalutarla. Il problema però è che il passato ci ha fatto vedere come la cura per il verde di nuova emissione sia stata proprio non scadente, ma proprio assente, per cui un minimo di preoccupazione c'è anche per questo aspetto. Oggi dovevano cominciare i lavori e voi state tenendo un presidio. Noi stiamo tenendo un presidio totalmente democratico, non violento e anche molto aperto alla discussione. Sono le forze dell'ordine, siamo in una trentina di cittadini, siamo un gruppo di cittadini totalmente trasversale. Non abbiamo connotazioni politiche, abbiamo semplicemente l'attaccamento a quello che secondo noi è un valore, cioè la presenza di alberi importanti che rischiano di essere abbattuti. Avete anche diffidato però il comune? Abbiamo fatto alcuni passi, tra cui una diffida, che ovviamente ha un valore importante perché è stata l'estrema soluzione. Prima abbiamo avuto due incontri con il sindaco. Il primo, diciamo, un po' più interlocutorio, perché era proprio l'inizio di tutta la faccenda. Abbiamo avuto questa comunicazione il 20 settembre. Prima nessun cittadino è stato informato di alcunché e quindi quello che abbiamo manifestato sin da subito al sindaco è la nostra indisposizione, la nostra preoccupazione per il fatto che non abbia in nessun modo attivato dei processi partecipativi per prendere questa decisione. Si è parlato sempre, addirittura fin dalla sua elezione, quindi era già nel suo programma elettorale, quello della riqualificazione di questo viale, però non si è mai sceso nel merito. Il progetto in quanto tale è stato calato rigidamente dall'alto. In assenza di una partecipazione, di una democrazia partecipata, che innanzitutto è indicata nel nostro regolamento comunale, ma poi è indicata anche dalla legge sulla partecipazione regionale, insomma, sono prassi che ormai in quasi tutti i comuni, non solo dell'Emilia Romagna, ma di tutta Italia, vengono attivate normalmente. In questi incontri con il sindaco noi abbiamo proposto delle alternative studiate in pochi giorni da delle persone tutto sommato non qualificate a farlo, che però sono basate su delle regole, su delle leggi, su delle indicazioni regionali ed europee per la costituzione appunto di un progetto alternativo. Questo progetto è stato presentato al sindaco alla presenza di due agronomi di sostegno, che sono quelli che sono stati i relatori della perizia sugli alberi, e poi c'era anche la presenza del tecnico comunale e della parte, diciamo, progettuale. Noi abbiamo presentato questa nostra alternativa, che è stata valutata lì per lì, proprio, diciamo, in sede di cantiere, chiamiamola così, cioè sulla strada, è stata valutata assolutamente plausibile. Quindi il problema non è che noi vogliamo l'impossibile, non è che noi raccontiamo favole per Elsi. Qui il problema è che c'è una decisione politica che rigidamente si vuole mantenere tale. Ora, quali siano le motivazioni, il sindaco non ce l'ha mai detto. Lascia adito a pensare che sia solo una questione politica, squisitamente politica. Le ragioni vere, profonde, non ce le ha mai volute dire.